Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Luisa Todini, Nel nome del padre, di Alessandra Scaglioni. Suo padre voleva costruire tutte le strade del mondo. Lei lo sta facendo. Luisa Todini ha 43 anni. È alla guida di un'azienda, la Todini Costruzioni, che si occupa di infrastrutture, edilizia civile e industriale. Strade, autostrade, ponti, edifici pubblici in tutto il mondo. È l'azienda che sta lavorando alla variante di valico tra Toscana ed Emilia-Romagna, all'ampliamento dell'aeroporto di Pisa, alla sistemazione del bacino del fiume Sarno. È stato il padre di Luisa, Franco, a fondare l'azienda in Umbria negli anni 50. Veniva da una famiglia di contadini e aveva iniziato con il commercio di cereali. L'azienda nasce da mio padre Franco, che purtroppo è scomparso nel 2001, giovane, 67 anni. Lui, che era nato tra le due guerre, tra le due grandi guerre in Umbria, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal nulla, perché era figlio del contadino, del fattore di un campo, quindi insomma davvero povero, però con tante idee, probabilmente proprio perché in Umbria mancavano le strade. Immaginate, oggi è ancora un po' complicato attraversarle orizzontalmente, immaginate che cos'era 50 anni fa. Quindi gli venne in mente costruire le strade. Mi raccontava che diceva alla sua fidanzatina di 14-15 anni: mi devi sposare perché costruirò tutte le strade del mondo. Non lo ha sposato lei, perché poi lui ha sposato mia madre, e lei si sarà mangiati i gomiti, perché mio padre effettivamente ha costruito tanto e oggi siamo presenti in 12 paesi del mondo, su 4 continenti. L'infanzia di Luisa è in campagna, in Umbria, in una famiglia di origini contadine. Poi la sua vita segue i percorsi dell'attività imprenditoriale del padre. Sono nata nel 66 in Umbria. E nata e cresciuta in un piccolissimo paesino, una frazione di Todi che si chiama Cecanibbi, 150 anime, come si suol dire, e i primi 5 anni della mia vita li ho passati lì, e credo che questa forza della natura circostante mi abbia dato un po' la capacità di stare con i piedi per terra in senso assoluto. Vivevo in una casa dove si viveva in 10, con i nonni, i cugini, un unico bagno senza riscaldamento, si metteva il prete nel letto, cioè questa specie di attrezzo con un braciere in mezzo per riscaldare queste lenzuola di canapa umide. Io ricordo però un'infanzia bellissima, meravigliosa. Ricordo quando a scuola, intorno ai 14 anni, mi portarono a vedere l'albero degli zoccoli di Olmi, e c'era la scena incredibile in cui si uccideva il maiale. Io, tutti quanti chiudevano gli occhi e io ero invece ispirata, perché ricordavo come una volta al mese si ammazzava il maiale ed era una gran festa, perché del maiale non si butta niente, quindi era una festa per tutta la famiglia. Quindi queste cose di vita rurale, campestre, insieme ai nonni, gli zii, i cugini, che mi hanno dato un grande senso di famiglia. A Roma, a scuola dalle suore e poi dai gesuiti. Nell'adolescenza di Luisa Todini, tra i cambiamenti, resta un punto di riferimento: il padre. Io sono la seconda, ho un fratello più grande maschio, ma io avevo proprio un desiderio di identificazione in lui. A 18 anni mi sono rapata a zero, ero molto felice del mio corpo con poche forme, no? Giacchetta, pantaloni, scarpe basse. Proprio il desiderio di compiacerlo in tutto e per tutto. Io ho iniziato a seguirlo nei cantieri già alle medie. Mi è piaciuto, o meglio, non so se questo mestiere mi è piaciuto da subito. Mi è piaciuto da subito il fatto di poter stare accanto a mio padre. Quindi a 16 anni, per guadagnare le paghette, oltre che sparecchiare a casa e fare dei lavori di casa, andavo a fare le fotocopie in ufficio. Avevo proprio il desiderio di stare accanto a lui e di compiacerlo. Ma la decisione di seguirne le orme non arriva subito. Prima c'è la passione per il teatro e la recitazione, e poi la voglia di dedicarsi a progetti di volontariato. In entrambi i casi Franco Todini non è d'accordo. Intorno ai 18-19 anni c'è sempre un pochino di sbandamento, si va all'università, si conoscono persone nuove, si esce un po' dai classici binari, per cui ho avuto intanto un periodo di grande riflessione dovuto a un viaggio fatto in India con la Lega Missionaria, e quindi lì insomma si torna a casa dopo 3 mesi. Senza il volere di mio padre sono andata in India, anzi mio padre l'ha contrastato molto, perché sono tornata insomma con dei grandi dubbi. Lì mio padre però fu illuminante, perché dopo qualche mese di semidepressione adolescenziale, insomma ormai ero fuori dai teenager, se vuoi, perché avevo superato i 18 anni, mi disse: guarda, tu puoi anche andare in India, puoi andare in una missione a dare una mano, ma forse non sei pronta, tra qualche mese torni con l'esaurimento nervoso, pentita. Hai un'impresa di costruzioni che può crescere, la puoi ereditare, puoi fare tutto, e forse un giorno potrai costruire un ospedale. E questo mi ha illuminato. E quando mio padre è morto, dopo 8 anni, io attraverso anche altri sostenitori ho finanziato un ospedale a nome di mio padre in India. Quindi questo è stato, sono riuscita a realizzarlo dopo parecchio tempo, però è stata un'illuminazione, perché sicuramente in valore assoluto è stato decisamente meglio che essere una persona sola che magari rischiava di tornare a casa esaurita, come diceva lui. La fine degli anni 80 e i primissimi anni 90 sono per l'azienda un periodo di espansione e solidità, fino a quando non arriva Tangentopoli. Si viveva molto bene, no? Periodi di vacche grasse per il settore, eccetera. L'unico forse rimasto veramente con i piedi per terra era mio padre. E arriva Tangentopoli ed è un ciclone, effettivamente, perché insomma, ti ritrovi di fronte ad una realtà. Mio padre fu uno dei primissimi arrestati nell'agosto del 92, così eravamo in una riunione di chiusura prima dell'estate, lo chiama la Guardia di Finanza, esce con le manette, fortunatamente non con le manette, ma insomma esce arrestato a Salerno, ma tra l'altro in una situazione allucinante, perché in base ad un'accusa che interveniva da una persona che mio padre non ha mai conosciuto, su un lavoro che non era mai stato appaltato, e questa persona descrive mio padre come alto, con tanti capelli e scuro di carnagione. Mio padre era insomma bianco, un po' cicciottone all'epoca e già capelli abbastanza radi, quindi io non discuto, magari dopo 2 mesi avrebbero anche potuto arrestarlo lo stesso mio padre, ma almeno fate un contraddittorio, andate a verificare se quella persona veramente corrisponde a quell'accusa. Poi ho fatto qualche mese di domiciliari, l'azienda era molto sana, molto solida, quindi abbiamo un po' contratto il fatturato, ma è stato poi anche lì l'opportunità per andare all'estero, perché in Italia si era contratto molto il mercato. Ed è iniziata la nostra espansione all'estero, che oggi di fatto ci dà grandi soddisfazioni. Dall'est Europa, siamo in Centro Asia, in Nord Africa, appunto in 12 paesi del mondo. Quindi abbiamo trasformato il momento di crisi in opportunità. Gli interessi dell'azienda si spostano all'estero e la vita di Luisa si sposta in Argentina, ma per poco. Subito dopo scoppia la passione per la politica con Forza Italia. Poi nel 94 nasce Forza Italia, Berlusconi inventa questo sogno, perché tra il 93 e il 94, perché di fatto è stata una sua invenzione. In quel momento stavo vivendo, mio padre dopo la grande delusione disse basta, me ne vado dall'Italia. Prende il mappamondo, dice dove vado? In un posto dove parlano più o meno l'italiano e sono simili a noi, e quindi sceglie l'Argentina, perché un suo amico aveva fatto degli investimenti in Argentina. Andiamo in Argentina, ci innamoriamo tutti dell'Argentina, in 4 e 4 pochi dollari compra 14.000 ettari di terreni, che qui è come averne 200, insomma un grande campo, ma insomma ecco, più o meno è con tutte queste mucche, grandi estanzias eccetera. Io mi innamoro dell'Argentina, dico io voglio vivere qui. Mio padre si fida di questa cosa, dice bene, tu, ho passato 6 mesi circa in Argentina facendo la vita del campo proprio, e quindi mi ero detto provo io a gestire, imparo a gestire quello che è. Dopodiché torno in Italia all'inizio del 94, c'era questo grande momento di lancio di Forza Italia, insomma, si credeva veramente che il sogno di Berlusconi potesse cambiare tutto. Una mia amica dell'epoca con cui siamo rimasti tali, Stefania Prestigiacomo, attuale ministro, amica di Confindustria, viene eletta, e quindi mi dice no, ma tu che conosci le lingue, ti devi candidare al Parlamento Europeo. Io le prometto che dal mio piano di studi di giurisprudenza, sono laureata in giurisprudenza, avevo anche tolto il diritto comunitario, quindi a malapena, nella mia ignoranza, sapevo Strasburgo, Bruxelles eccetera, no? Quindi in maniera, devo essere sincera, proprio totalmente improvvisata, allora dico a mio padre guarda, io mi vorrei candidare. Si vede che non era ancora, avevo un po' le idee confuse ancora tra azienda cosa, eccetera, però mi ero fatta prendere da questo sogno. Mio padre dice ma no, ma scherzi, gli imprenditori, cioè, a parte devi stare in Argentina, ma gli imprenditori non fanno politica, gli imprenditori la guardano, usano gli strumenti del governo, ma stanno low profile dietro le quinte. No, lo convinco a mandare un mio curriculum a Gianni Letta, che lui non conosceva neanche benissimo, ma insomma Gianni Letta è una persona cortese che risponde a tutti, infatti risponde a mio padre dicendo mi sembra che sua figlia abbia un ottimo curriculum, potrebbe essere una brevissima gestore di un club Forza Italia. Luisa però la candidatura la ottiene, è penultima in lista e anche in questo caso arriva il giudizio del padre. Io credo che loro abbiano detto ci servono donne, all'epoca c'erano le quote, ci sono figure femminili, è figlia di un imprenditore che magari investe anche qualcosa nella campagna elettorale, in ogni caso ci fa gioco, ero la penultima in lista, insomma Todini eccetera. Fatto sta, la faccio breve, mio padre per 10 giorni non mi parla, dice ma come ti sei permessa, io pensavo che fosse tutto finito. Poi quando capisce che la campagna elettorale dell'Europa è una vera campagna elettorale in cui bisogna ottenere le preferenze, su tutta la regione dell'Italia centrale. Da lì lui ha immaginato: se più preferenze persone scrivono il nome Todini, e più il nome Todini si lava di quella che lui riteneva ancora l'onta di Tangentopoli. Capendo questo meccanismo, perché è una campagna elettorale difficile quella delle europee, si lancia lui e tutta l'azienda a fare la campagna elettorale. Quindi l'investimento non è stato tanto in soldi quanto in tempo, tutta la famiglia eccetera. Fatto sta che divento la prima degli eletti dopo Berlusconi, con circa 90.000 preferenze. Dopo un mandato decide di tornare in azienda, ma solo un anno dopo, nel 2001, ad aprile, il padre muore e Luisa di quell'azienda prende in mano le redini. Oggi è presidente della Todini Finanziaria, la holding di famiglia a cui la Todini Costruzioni fa capo. Guida una società che fattura 500 milioni di euro. Oggi la grande soddisfazione è che ho la sensazione che intanto le persone che lavorano con noi non lavorano più solo e soltanto nel ricordo di mio padre, e che l'azienda è pronta per andare avanti al di là del nome Todini. Cioè, io credo che il più grande successo è quando l'azienda va avanti autonomamente, indipendentemente dal fatto che ci sia un imprenditore azionista che c'è dietro. Vuol dire che pedala con i propri piedi, insomma, al di là, e si stacca da quelle che è il cognome fondatore, che è stato il patriarca. Insomma, credo che sia un grande successo. Le attività dell'azienda all'estero si sono moltiplicate. Costruisce strade in Kazakistan, edifici pubblici in Grecia, autostrade in Georgia e dighe in Algeria. E Luisa Todini è stata nominata nel dicembre 2008 presidente del Comitato Leonardo, che lavora sulla promozione del Made in Italy all'estero. Il Made in Italy è un grande brand, nonostante tutto, nonostante forse noi siamo un po' dispettisi, nonostante gli italiani chiamino forse non sempre esaltare noi stessi. Io ho avuto l'onore di ricevere il premio Leonardo Qualità Italia e di essere nominata alla presidenza del Comitato Leonardo, che nei primi anni 90 è stato fondato dall'avvocato Agnelli, da Sergio Pininfarina, da Alice, da Confindustria, che raggruppa 141 soci che sono un po' l'eccellenza del Made in Italy. Facciamo promozione di Made in Italy e mi rendo conto che ciascun settore che porta il nome dell'Italia all'estero fa cassa di risonanza per l'altro. Cioè, noi quando andiamo a lavorare come settore delle costruzioni viviamo del positivo che crea la moda e l'alimentare del Made in Italy, così che se noi facciamo bene il nostro lavoro, anche la moda e l'alimentare Made in Italy è accettato. Quindi c'è una grande sinergia da questo punto di vista. Il brand Made in Italy vale molto, e probabilmente bisogna superare quello che è il concetto del Made in Italy come ideato, creato e prodotto in Italia. Cioè, bisogna tutelare l'ideazione, la progettazione, quindi è l'Italy Made che conta da un certo punto di vista, perché nel mondo globale che oggi si sta un po' chiudendo a causa della crisi, ma certamente la soluzione e la ricetta non è il protezionismo, di questo ormai siamo tutti estremamente convinti. Quindi è un grande prestigio presiedere questo comitato, e c'è molto da fare nel binario già consolidato, perché di fatto, ecco, se posso fare una critica a noi imprenditori, è che ogni tanto c'è troppo individualismo e poi non sempre ci lamentiamo che non esistono gli strumenti, invece spesso non sappiamo riconoscerli, gli strumenti del sistema in Italia, per esempio, c'è sempre la solita tiritera: non esiste il sistema in Italia. Non è vero che non esiste. Certo, ci può essere un miglior direttore ICE in una città del mondo piuttosto che un altro, un miglior ambasciatore piuttosto che un altro, ma dipende dalle persone. E che spesso gli italiani arrivano a scoprire che esiste il sistema in Italia quando è scoppiata una grana, quando c'è un problema. Allora vanno dall'ambasciatore, vanno dall'ICE, vanno dall'ufficio consolare a raccontare il problema, quando, come si suol dire, sono scappati dalla stalla. Invece dobbiamo imparare ad usare al meglio la filiera dei sistemi Italia, che esiste, ha degli uomini e delle donne di grande livello. La famiglia di riferimento adesso non è più quella d'origine, è la sua, il marito e la figlia di 7 anni. Non deve chiedere a me se ho delle difficoltà, sono altre difficoltà che passano altre persone che non possono conciliare la vita lavorativa con la vita familiare. Io ho tante responsabilità, perché gestire un'azienda vuol dire che 24H con la mente, quindi 24 ore al giorno si sta sul pezzo, come si suol dire, si sta in azienda, magari di notte ci si sveglia, si scrivono le cose, quindi non c'è un rilassamento da questo punto di vista. Però io ho tanti privilegi, sicuramente. E alla fine anche Luisa Todini ha deciso che la scelta, la sua scelta, è quella giusta. Prima che scomparisse mio padre mi sono sempre chiesta se questo lavoro davvero mi piaceva, se lo facessi soltanto per lui. Poi sono 8 anni che è scomparso, avrei potuto anche vendere l'azienda, no? Perché poi con mio fratello e mia madre ci siamo separati, quindi ognuno ha seguito la propria strada. Quindi evidentemente invece questo lavoro mi piace ed è una grande soddisfazione pensare che lasciamo nel nostro gergo quello che chiamiamo opere d'arte, perché per noi un viadotto è un'opera d'arte e rimane lì per vari decenni, no? Speriamo anche per più tempo se lo costruiamo bene. Quindi è una grande soddisfazione, un grande orgoglio, nonostante le difficoltà di un lavoro complicato. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.